Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. È iniziata la seconda parte di Eclettica dopo che la prima ha avuto una conformazione abbastanza anomala rispetto alla norma. È vero che comunque Eclettica è già un po' fuori dagli schemi, ma non così tanto. Solo due brani per la prima parte. Il primo di questi due brani era Good Times, Good Times. Questo è il nome dell'artista, o meglio lo pseudonimo dell'artista di base a Londra, ma di origine italiana. Infatti all'anagrafe è Francesco Cinelli. Kids è il titolo ascoltato da parte di Good Times, Good Times. E poi ci siamo ascoltati una lunghissima Rockets Fall on Rocket Falls da parte dei Godspeed You Black Emperor. Il tutto è colpa di Leonardo, che mi ha scritto queste parole qualche giorno fa. Ciao Giulio, ho letto sulla pagina MySpace dei Godspeed You Black Emperor che si sono sciolti. Il loro post con la scritta Adieu mi ha messo una tristezza, mi piange il cuore. Un peccato perderli. Rimane la speranza che sia solo una pausa. Il tempo dirà. E avendo letto queste parole, allora sono andato anch'io su quella pagina di MySpace e vedo appunto lo stesso post dove sembra quasi che non è che si siano sciolti, ma si siano arresi, vedendo poi la foto che hanno deciso di utilizzare per rappresentare questo loro momento. E sicuramente è tristezza quella che viene a leggere poi tutti i successivi commenti di coloro che ascoltavano Godspeed You Black Emperor. E vediamo di proseguire, rientrare un po' nella norma per quanto riguarda Eclettica, perlomeno in questa seconda parte del volume numero 4. Abbiamo aperto con Kelly Stoltz, un estratto dal suo ultimo Pearl Sub Pop dal titolo Your Reverie, e proseguiamo con una band il cui esordio ci sarà solo nell'autunno 2008, una band che proviene da Atlanta, in Georgia. Per il momento esce un 7 pollici ad anticipare quello che sarà il loro album d'esordio, appunto previsto fra parecchi mesi, un 7 pollici che si intitola All Ya All. Loro sono i Gringo Starr. Alle 9 antemeridiane del 14 maggio 1885 il delfino levava le ancore dal porto di Nevasleppe e prendeva il mare. Mezz'ora dopo il signor Filimario Dublé udiva bussare discretamente alla porta della sua cabina e questo pur modesto avvenimento provocava nel celebre gentiluomo giustificato compiacimento. Effettivamente, già da parecchio, il signor Filimario Dublé attendeva che qualcuno bussasse alla porta della sua cabina. Per essere più precisi, già da 60 minuti il signor Filimario Dublé aspettava l'apparizione della signorina Clotilde Troll. Ed era la cosa più logica che egli potesse aspettare, dopo la singolare lettera ricevuta la sera precedente. «Egregio signore, domattina il mio Panfilo leverà l'ancora per una breve crociera. Alle 8:30 vi attendo a bordo. Vorrei mettervi a parte di una curiosa idea sbocciata nel mio cuore già da qualche tempo». Vi ringrazio. Nel frattempo, non rifiutate un piccolo bacio da Clotilde Troll. Questo era l'incipit del destino, si chiama Clotilde, di Giovanni Guareschi. completely lost. Houses swallowed by the earth, windows thick with frost. And I reach deep down within, but the pathways twist and turn, and there's no light anywhere, and nothing left to burn. And I am this great, unstable mass of blood and foam, and no emotion that's worth having can call my heart its home. My heart's an autoclave. My heart's an autoclave. Those people chased us with pitchforks and torches. Torches! At 4 in the afternoon! It was 7 at night. It was during Access Hollywood. Which is on at 4 and 7. Go! Thank you. Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM fino alle 20, come tutti i giorni della settimana, sempre che ascoltiate da palinsesto. Avete voi la possibilità di decidervi il vostro palinsesto personale, quello del vostro lettore MP3 o del vostro computer, a seconda di dove decidiate di ascoltare il podcast di Eclettica, di cui trovate i dettagli su myspace.com/eclettica, oltre che sul sito ufficiale della radio. Che cosa ci siamo ascoltati? Beh, ci siamo appena ascoltati i canadesi Holy Fuck, che fra l'altro avevano anche segnato la playlist di Eclettica con un remix nei giorni scorsi. In precedenza invece siamo andati a prendere un estratto diverso da quello che è il nuovo album dei The Mountain Goats. Diverso da cosa? Beh, diverso rispetto alla Sax Romer No. 1 che di solito ci ascoltavamo dal loro Heretic Pride del 2008. Il brano di quest'oggi invece, che aveva preceduto quello degli Holy Fuck, si intitolava Autoclave. Per lasciare ora lo spazio invece ai La Chimera, gli scozzesi La Chimera, di cui abbiamo presentato prima il demo, poi i singoli, ed ora è in arrivo invece l'album ufficiale. L'altro giorno, andando a vedere nel cassetto dove vengono di solito messe le buste che arrivano a mio nome, ne ho vista una con i francobolli della regina Elisabetta con il timbro di Edimburgo. Ho pensato, magari c'è qualcosa dentro da parte dei La Chimera, e infatti così era. L'album di debutto, omonimo, come si conviene in questi casi, che contiene tracce che già conosciamo, come per esempio How Dare You. Potete controllarlo se andate a verificare le vecchie playlist, oppure come No Motion, che è il pezzo che invece vi ascoltate proprio ora. Compare the twisting with no motion. La signora Leonida Fular, vedova Amadellis, aveva appena suonato il campanello per far portare il caffè, quando Gius Maria, il vecchio maggiordomo, entrò e disse con aria stravolta: «È qui!» La signora Leo, le figlie Elisabetta e Flaminia e la nipote Robinia impallidirono. Il signor Gastone Food aggrottò minacciosamente le sopracciglia. Il giovane Edo Food fece spallucce e Carlotta disse allegramente: «Oh!» ma venne considerata da tutti con orrore. Il signor Casimiro Wonder era tornato improvvisamente dopo un'assenza di quasi 2 anni. Di lì a poco, infatti, entrò in sala da pranzo come al solito, col cappellaccio in testa e con il sigaro fra i denti. Diede un'occhiata panoramica alla famiglia assisa al desco e poi disse: «Che accidente gli è successo al vecchio da fargli rinunciare al desinare?» «Il signor Saffo Madellis è morto», rispose sdegnosamente la signora Leo. «Poteva avvertire», borbottò Casimiro. «Ho detto 100 volte che in casa mia non si deve far niente senza il mio permesso». Questo era l'incipit de Il marito in collegio di Giovanni Guareschi. We wage wars like Pascal wage wages. It's on Pascal's wager we send Sergeant Major to fight. It would be nice if we took his triangle and we could find new angles more violent and wonderful. Has one. sun. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 16, volume numero 4. Indice: Good Times, Good Times. Godspeed You, Black Emperor. Kelly Stoltz. Gringo Starr. The Mountain Goats. Holy Fuck. La Chimera. Friars. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.